tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Divorziati, risposati e omosessuali. Apertura della Chiesa nel documento di base del Sinodo sulla famiglia che aprirà in ottobre. La Giunta di Roma sempre più in bilico. Dopo le dimissioni dell'assessore ai trasporti potrebbero arrivare quelle del responsabile bilancio. Pressione di Renzi su Marino perché lasci. Inchiesta su 5 gare del Catania. In manette anche il presidente Pulvirenti. Le accuse truffa e frode sportiva. Avrebbe comprato i match per non retrocedere. Ancora bene i mercati in attesa di una soluzione sul caso Greco. Dati positivi intanto dall'Italia. Crescono gli ordinativi dell'industria. Risalgono le vendite al dettaglio. Da luglio la ricollocazione dei migranti, dice Alfano, la lettera dei sindaci del litorale veneto a Renzi. Basta inviare profughi, strutture in difficoltà e i turisti se ne vanno. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it, se volete scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e durante la diretta il numero di sms, il 349-238-6666. In apertura parliamo di una notizia arrivata poco fa, o meglio di un documento arrivato poco fa, il documento che arriva in vista del Sinodo, dove si toccano una serie di argomenti delicati e ci sono una serie di aperture importanti da parte del Vaticano. Per le famiglie in difficoltà la Chiesa non deve fermarsi ad un annuncio meramente teorico e sganciato dai problemi reali delle persone. È quanto si legge nel testo preparatorio del Sinodo del prossimo ottobre. Occorrerà prediligere un linguaggio che susciti speranza e una comunicazione aperta al dialogo e scevra da pregiudizi. Quanto ai divorziati e risposati civilmente, si legge a proposito di una delle questioni più controverse, l'auspicio è quello di far cadere le forme di esclusione attualmente praticate nel campo liturgico, pastorale, in quello educativo e caritativo. Si fotografano però una serie di posizioni differenti sull'ammissione possibile ai sacramenti, anche se c'è un accordo, si legge, sull'ipotesi di un itinerario di riconciliazione o via penitenziale sotto l'autorità del vescovo. Altra questione controversa, quella dei gay. Si ribadisce che ogni persona, indipendentemente dalla tendenza sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta. Sarebbe auspicabile inoltre che i progetti pastorali diocesani riservassero una specifica attenzione all'accompagnamento delle famiglie in cui vivono persone con tendenza omosessuale. Infine, il ruolo della donna. L'auspicio è quello di includere la presenza femminile anche nella formazione sacerdotale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo adesso alle ore di tensione che attraversano la Giunta di Roma. Le pressioni di Renzi perché Marino lasci si starebbero facendo sempre più forti, specie dopo l'addio dell'assessore ai trasporti in prota. In questi minuti Marino è in conferenza stampa, a breve forse risponderà anche a qualche domanda su questo. Intanto il servizio. Palazzo Chigi stamattina smentisce quello che a molti è sembrato un vero e proprio avviso di sfratto inviato da Matteo Renzi ad Ignazio Marino. Secondo alcuni quotidiani, parlando con i suoi più stretti collaboratori, il Premier ieri avrebbe di fatto sfiduciato il sindaco di Roma. È una persona onesta ma non è più in grado di governare la città, avrebbe detto Renzi annunciando sorprese imminenti. Nonostante la smentita arrivata oggi dalla presidenza del Consiglio, fra Palazzo Chigi e Campidoglio restano comunque le distanze. Marino appare sempre di più sotto assedio. Per la gestione della città, il primo cittadino, ieri è stato contestato in diretta streaming anche dalla sua maggioranza, riunita per fare il punto dopo la conferma delle dimissioni da parte dell'assessore renziano in prota. A testimoniare le difficoltà del momento arriva anche la notizia della scorta assegnata al presidente del Partito Democratico e commissario del PD romano, Matteo Orfini, per le minacce ricevute dopo l'inchiesta su Mafia Capitale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'altro fronte politico è quello della scuola. Approdano in commissione le modifiche proposte dal governo, il cosiddetto maxi emendamento. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, Simone. Le opposizioni non ritirano gli emendamenti in commissione istruzione al Senato e si va verso la fiducia sul disegno di legge sulla scuola. Matteo Renzi l'ha ribadito anche oggi: se il progetto della buona scuola andrà avanti avremo 100.000 assunzioni in più, altrimenti un regolare turnover, 20-20.000. 25.000 assunzioni. Il Premier poi precisa nessun cambio del calendario delle vacanze, ma di questo parleremo solo dopo che sarà approvata la riforma. Intanto al Senato è già pronto il maxiemendamento dei relatori Franco Conte e Francesca Puglisi, in parte contiene alcune delle richieste dell'opposizione, ma le modifiche sono minimali rispetto al testo arrivato dalla Camera. La novità principale riguarda la platea dei precari da stabilizzare tra il 2015 e il 2016. Lega e Movimento 5 Stelle non hanno ritirato gli emendamenti. Alla seduta è presente il Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini e secondo quanto si è appreso, inoltre, l'ipotesi della fiducia sulla riforma potrebbe già essere apposta nella giornata di dopodomani in aula. Quindi il risultato è quello, Simone, si va verso la fiducia. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Avete sentito che Renzi ha parlato anche di scuola. Il Presidente del Consiglio oggi era in visita a Torino e poi sulla nuova funivia del Monte Bianco, dove si trova Miriam Korjat. Buongiorno Miriam. Buongiorno Simone, il Premier ha lasciato da poco la terrazza a 2200 metri della nuova funivia del Monte Bianco Skyway, che è stata inaugurata proprio questa mattina. Renzi, parlando di infrastrutture, ha auspicato lo sblocco dei cantieri che in tutto il paese al momento sono fermi. Renzi ha detto questo consentirebbe la crescita del PIL di oltre un punto percentuale. Renzi ha parlato anche di Europa e ha invitato l'Unione Europea ad allargare i propri orizzonti in materia economica, di immigrazione, diventando quella che lo stesso Renzi ha chiamato la casa dei popoli e non solo la casa della burocrazia. Ma sentiamo proprio le parole del Premier. Sarebbe interessante domandarsi quanto questa Europa ha bisogno di tornare a sognare, quanto debba smettere di essere soltanto un luogo nel quale le discussioni che facciamo sono discussioni burocratiche. Ecco, sarebbe stato forse interessante che il vertice del Consiglio Europeo l'avessimo fatto in cima alla funivia. Il Renzi ha parlato anche della crescita economica, ha detto non cresciamo ancora quanto dovremmo, soprattutto perché sono l'edilizia che non cresce quanto vorremmo. L'edilizia, se potesse riprendersi, sarebbe il traino della crescita economica. E per il momento è tutto, Simone. E grazie a Miriam Korjat per questi aggiornamenti. Bene, si parlava di Europa. Oggi la Banca Centrale Europea ha alzato la liquidità di emergenza fornita dalla Banca Centrale Greca agli istituti ellenici, a circa 89 miliardi di euro. Questa è la notizia di stamattina, mentre ancora oggi i mercati sono positivi, in attesa evidentemente di un accordo con Atene che dovrebbe arrivare nella serata di giovedì. Il FTSE MIB guadagna lo 0,81%, il FTSE Share lo 0,86, positiva sopra il punto percentuale anche Francoforte, Parigi e Londra guadagna lo 0,27%. Sui mercati, come sempre, torneremo alle 13.30, ma restiamo sui temi economici e di politica economica per una sentenza della Corte Costituzionale attesa per oggi e che forse si teme che possa rispecchiare quella sulle pensioni. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Lavori della Consulta che sono iniziati poco prima delle 11. Sul tavolo il nodo del blocco dei contratti pubblici varato per decreto nel 2010 per il triennio a seguire e la proroga per lo scorso anno. La questione, lo ricordiamo, è stata sollevata dai tribunali di Roma e di Ravenna dopo i ricorsi di vari sindacati del settore. La Corte Costituzionale deve valutare allora se il blocco in questione è legittimo. Un'udienza, quella in corso, che arriva a poche settimane dalla bocciatura dello stop alla rivalutazione delle pensioni, che ha costretto il governo a varare il cosiddetto bonus Poletti e impiegare il tesoretto da 10 miliardi. Anche la sentenza di oggi, qualora accogliesse i ricorsi, potrebbe avere conseguenze sul bilancio pubblico tra arretrati, riallineamento e inserimento della spesa nel documento di economia e finanza e nel bilancio pluriennale. Il costo di un'eventuale pronuncia di illegittimità viene valutato intorno ai 35 miliardi. Cosa farà la Corte? L'ipotesi più accreditata tra i giuristi è quella di una pronuncia di inammissibilità della questione proposta, che faccia leva sul fatto che la norma è stata emanata in una congiuntura di crisi ed è transitoria, una pronuncia però accompagnata da un monito al legislatore a rimuovere il blocco e a riaprire la contrattazione, limitando in futuro interventi di questo tipo che pesano sul reddito. E per il momento è tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta, tra poco torneremo sull'economia, abbiamo anche i dati sugli ordinativi all'industria e alle vendite e le vendite al dettaglio che sono positivi, ma prima andiamo a sentire che cosa è successo a Catania, dove, come vi abbiamo raccontato anche nei titoli, anche nei GR di questa mattina, ci sono stati una serie di arresti, tra cui il presidente del Catania. Un treno alle 15. E l'altro? Ce ne sono altri due di treni però. Ah, tenemi informato, ciao. Va bene, ciao. Sono le voci del presidente del Catania Antonino Pulvirenti e dell'ex direttore sportivo Daniele Dellicarri, intercettati dalla DDA di Catania. I treni sarebbero, secondo i magistrati, i giocatori che si prestavano alle truffe per evitare la retrocessione del Catania dalla Serie B nell'ultimo campionato. Sono questi presunti tentativi di combine che hanno portato all'arresto di Pulvirenti e di altre 6 persone in un'inchiesta che scuote il calcio italiano dopo quelle sul calcio scommesse. In manette, oltre a Pulvirenti e Dellicarri, anche l'amministratore delegato del Catania Pablo Cosentino, 2 procuratori sportivi e 2 gestori di scommesse. E in totale sono 19 gli indagati. Il risultato di 5 partite del Catania sarebbe stato concordato a tavolino, come spiega la dirigente della questura Antonella Paialunga. Una fase ideativa che vedeva certamente nel suo vertice il presidente Pulvirenti, che dava l'avvio. È una fase esecutiva che serviva sicuramente al pagamento del calciatore di volta in volta oggetto di corruttela. Pulvirenti si dice convinto di poter dimostrare la propria estraneità. Per il presidente della Lega di Serie B, Andrea Abodi, non c'è il rischio di invalidare l'ultimo campionato, ma è necessario punire comportamenti disonesti. La risposta, in caso di conferma, sia dura, faccia capire che il nostro mondo non è disposto ad accettare nessun tipo di accomodamento, nessun tipo di accordo. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci sono state questa mattina in Parlamento le relazioni, 2 relazioni annuali importanti, sono le relazioni di 2 authority, il Garante per la Privacy e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, i servizi. Poche risorse e molti incarichi, recitano le ultime righe. Nel 2014 abbiamo adottato 628 provvedimenti collegiali, 33.200 i quesiti ai quali l'ufficio ha dato risposta, 577 le sanzioni contestate, 385 le attività ispettive di accertamento. Abbiamo bisogno di mezzi adeguati, dice il garante Antonello Soro, ma il rapporto volge al termine e ormai l'attenzione si è concentrata su alcuni passaggi. Uno in particolare, quello relativo al Jobs Act. Nei rapporti di lavoro, il crescente ricorso alle tecnologie nell'organizzazione aziendale, i diffusi sistemi di geolocalizzazione e telecamere intelligenti hanno sfumato la linea un tempo netta tra vita privata e lavorativa. È auspicabile che il decreto legislativo all'esame delle Camere sappia ordinare i cambiamenti resi possibili dalle innovazioni in una cornice di garanzie che impediscano forme ingiustificate e invasive di controllo. Anche alla voce intercettazioni il garante ha avuto qualcosa da dire proprio in merito al decreto antiterrorismo. In fase di conversione a quel provvedimento sono state aggiunte una serie di previsioni che avrebbero alterato il giusto equilibrio tra privacy e sicurezza. Il modo migliore per difendere la nostra sicurezza è proteggere i nostri dati. Bisogna evitare raccolte massive di dati per limitare la superficie d'attacco, afferma Soro, per un terrorismo che sempre di più si alimenta della rete per passare dallo spionaggio informatico a quello delle stragi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Crisi alle spalle, ma ora bisogna guardare al futuro. Per le compagnie assicurative italiane la crisi del biennio 2011-2012 è superata, lo ha assicurato il presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Salvatore Rossi, sottolineando che la raccolta premi 2014 è stata decisamente migliore della media europea, quasi 150 miliardi di euro, il 20% in più rispetto al 2013, anno in cui già la raccolta era cresciuta. Si sfiora, dice, il 9% del PIL. In testa agli aumenti, il comparto vita. Questa è la parte positiva. Le polizze per danni, in particolare quelle per RC Auto, invece, restano su una linea di tendenza discendente e questa è la parte dolente. Infatti le tariffe delle polizze RC Auto sono ancora scese, ma i prezzi restano i più cari d'Europa e si risparmia cambiando compagnia. Inoltre sono recalcitranti a diversificare le proprie attività, senza contare che sul futuro delle assicurazioni peseranno 2 fattori rivoluzionari. Le nuove regole comunitarie che regolano bilanci e governance per la trasparenza e la solvibilità e le nuove tecnologie che permettono di fare tutto online. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si diceva dai dati economici arrivati questa mattina positivi sia gli ordinativi all'industria che le vendite al dettaglio. Gli ordini, cioè i ricavi futuri. Per l'industria italiana le notizie migliori ad aprile sono quelle prospettiche, con un balzo delle commesse che sfiora l'8%. Un dato promettente, il terzo consecutivo in crescita, il migliore da quasi 4 anni, diffuso a più settori, in progressione continua e confortante, soprattutto sul mercato interno, da febbraio ad aprile. Commesse che prima o poi si tradurranno in ricavi, di cui in effetti c'è ancora un discreto bisogno, perché ad aprile le entrate aziendali sono addirittura in discesa, frenate in particolare dall'energia. Un poco meglio la manifattura, ma anche qui il segno più è davvero risicato, appena lo 0,8%. Il bilancio nei 4 mesi per i ricavi delle imprese resta così amaro, un calo dello 0,6% interamente targato Italia. Ed ecco perché è cruciale che la ripresa degli ordini non sia soltanto una fiammata temporanea. Segnali non entusiasmanti arrivano intanto dalle vendite al dettaglio, bene rispetto a marzo, in calo di 0,5% nel confronto con aprile 2014. Calo dei consumi, forse, ma anche vendite online, al momento non rilevate dalle statistiche. Luca Orlando, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E cambiamo decisamente argomento. È morto il compositore delle musiche di Titanic e di molti altri film di Hollywood. È morto in un incidente aereo il compositore statunitense James Horner, vincitore di 2 premi Oscar nel 97 per Titanic, una delle sue colonne sonore più famose. È sua la canzone più nota del film di James Cameron, My Heart Will Go On, cantata da Celine Dion. Nella sua carriera Horner ha ricevuto 10 nomination agli Academy Awards e ha composto musica per oltre 100 film. Da Avatar, sempre per James Cameron, a Braveheart. Da Apollo 13. Beautiful Mind, solo per citarne alcune. James Horner stava pilotando il suo monomotore quando si è schiantato nella zona di Santa Barbara in California. Lo ha confermato una delle sue assistenti che sul suo profilo Facebook ha parlato della perdita di una persona fantastica con un grande cuore e un talento incredibile. Horner era nato a Los Angeles nel 1953 e aveva iniziato a studiare pianoforte a 5 anni. Giovanissimo ha studiato al Royal College of Music di Londra per poi tornare negli Stati Uniti, dove ha continuato gli studi prima in Arizona e poi in California. I primi successi sono arrivati tra gli anni 70 e 80 con La Signora in Rosso e Star Trek 2 L'Ira di Khan. Oltre che con James Cameron, Horner ha lavorato molto con l'attore e regista Ron Howard, che appena presa la notizia della sua morte ha twittato: era un brillante compositore, un amico e un collaboratore. Il mio cuore soffre per i suoi cari. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo, torneremo a parlare dei problemi, a questo punto soprattutto politici, di Roma e della giunta Marino, quelli giudiziari ovviamente ci sono e restano là, e poi ci occuperemo di immigrazione col sindaco di Jesolo. Ci sono i comuni del litorale veneziano che hanno un po' di problemi perché ci sono parecchi profughi, non tutti i comuni della provincia di Venezia ne stanno accogliendo, molti si stanno affollando là, e c'è questa lettera dei sindaci della costa che dicono: basta profughi, i turisti stanno scappando, traffico. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Divorziati, risposati, omosessuali, aperture della Chiesa nel documento di base del Sinodo sulla famiglia. La giunta di Roma sempre più in bilico dopo le dimissioni dell'assessore ai trasporti, potrebbero arrivare anche quelle del responsabile bilancio, pressioni di Renzi, queste le voci su Marino perché lasci. Inchiesta su 5 gare del Catania, in manette anche il presidente Pulvirenti, le accuse truffa e frode sportiva, avrebbe comprato i match per non retrocedere. Ancora bene i mercati in attesa di una soluzione sul caso Greco, dati abbastanza positivi intanto dall'Italia, crescono gli ordinativi, risalgono le vendite al dettaglio. Roberto Morassut, buongiorno. Buongiorno. È un parlamentare del Partito Democratico, è stato assessore all'urbanistica nella giunta Veltroni, segretario regionale del PD del Lazio nel 2008 e nel 2009, autore tra l'altro di 2 libri, Mala Roma e Roma Capitale 2.0. Con noi per parlare, lo avevamo già fatto all'inizio di tutta questa vicenda, soprattutto all'inizio dell'inchiesta su Mafia Capitale, per parlare soprattutto della questione politica che riguarda il sindaco di Roma in questo momento, Ignazio Marino. Secondo lei, Morassut, molto brutalmente, Marino può reggere ancora in queste condizioni? Può reggere a 2 condizioni, che ci sia un rilancio amministrativo che naturalmente però è un tema più complesso di una sua decisione di magari ristrutturare la giunta. Il tema più complesso è che il rilancio di un governo di una città sta in carico, diciamo, al movimento democratico nel suo complesso, cioè la giunta naturalmente in prima fila, ma poi anche la selezione degli obiettivi, l'indirizzo, la direzione di marcia che spetta anche alle forze politiche. Quindi in questa discussione su Marino naturalmente anche... Ma, mi scusi Morassut, però quello che voglio capire è che i margini, inteso sia come margini politici sia come margini di tempo, secondo lei ci sono oppure no? Io credo ci possano essere se si parte con le idee chiare, cioè su cosa si deve fare, una selezione chiara degli obiettivi dei prossimi tre anni, delle risorse possibili d'intesa col governo e dei possibili aggiustamenti della squadra, dell'amministrazione, le cui scelte non sono che altro in capo al sindaco. Quindi secondo lei può reggere, non ci sono problemi, perché abbiamo letto tra l'altro di tensioni. Non ci sono problemi, può reggere a queste condizioni, sì, che sono condizioni politiche serie. E si possono verificare secondo lei? Io mi auguro di sì, se ci si fa uno sforzo tutti insieme ci si può arrivare. Senta, si avvicina tra l'altro un altro appuntamento importantissimo, non solo per Roma ma per il paese, che è il Giubileo. Allora, si è ipotizzato nelle scorse ore un'idea di commissariare la parte della gestione del Giubileo. Le sembra un'ipotesi giusta e praticabile, oppure può rimanere in capo all'amministrazione la gestione di questo evento? L'evento può essere condotto con una collaborazione istituzionale tra un commissario espressione del governo e l'amministrazione comunale di Roma, con le necessarie ristrutturazioni, adeguamenti, rafforzamenti che abbiamo detto prima. A queste condizioni l'evento può essere affrontato al meglio. E quindi lei dice non c'è problema, cioè anche se ci fosse un commissario non sarebbe un problema, anzi... Mi pare che era stato trovato un equilibrio prima che si scatenasse questa piccola discussione politica su dimissioni o non dimissioni. Era stato trovato un equilibrio istituzionale che secondo me resta il punto di partenza sul modello organizzativo. Le pongo una domanda che abbiamo posto anche a un'altra persona, l'assessore al sociale di Roma, che è persona che tra l'altro è costretta a vivere sotto scorta e che deve per mestiere mettere le mani in molti dei settori nei quali si è annidata la cosiddetta mafia capitale, ed è questa: arriverà a breve la relazione di Gabrielli sulla condizione dell'infiltrazione della criminalità all'interno del comune di Roma, e vedremo che cosa avrà da dirci. Però visto quel che abbiamo visto, dato che lei tra l'altro è autore di un libro che si chiama Mala Roma, secondo lei le sembra possibile che si possa preservare un'azione amministrativa normale senza un commissariamento complessivo? Perché la domanda che abbiamo fatto all'assessore, che giro anche a lei, nel momento nel quale c'è infiltrazione non c'è solamente a livello politico ma c'è soprattutto a livello amministrativo, insomma ti trovi a lavorare e non sai mai chi hai vicino. Il commissario serve esattamente a far pulizia in questi casi. Allora, uno, l'amministrazione, si può discutere su alcuni aspetti dell'efficienza amministrativa, ma non è in discussione la trasparenza e la decisione di aver contrastato certe degenerazioni. Secondo, per quello che riguarda lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, c'è una procedura che non può essere dribblata con discorsi politici, ma si deve vedere che cosa cosa sarà scritto in questo rapporto. Terza questione, è chiaro che se c'è un problema di rilancio, ristrutturazione, rafforzamento, questo riguarda i livelli politici e anche i livelli amministrativi, ma dato che questo è un tema non semplice che si può ridurre ad una battuta verbale, comporta uno sforzo collettivo che riguarda il comune, le forze politiche e anche il governo. Secondo lei il PD in questo momento, il suo partito, è a disposizione per sostenere questa ristrutturazione? Perché, ripeto, l'impressione è che la pressione sia per un'uscita di scena di Marino. Il PD deve esserlo a livello romano, secondo me a livello nazionale, continuando quell'azione un po', diciamo, si poteva iniziare prima, detto per inciso, secondo me, di... sistemazione interna, di rilancio politico, di ripulitura delle degenerazioni e del decadimento della vita interna, a queste condizioni, con una chiarezza e una selezione chiara degli obiettivi e un patto con i romani sulle cose da fare negli ultimi 3 anni, si può tentare di ripartire. Le condizioni sono molto difficili, ma se c'è la voglia e se ci sono le idee, c'è la testa e c'è il cuore per farle, queste cose ci si può provare. Io me lo auguro, perché comunque il sindaco Marino in questi anni sicuramente non si è risparmiato per cercare di ridare a questa città almeno l'immagine della trasparenza. La ringrazio, grazie a Roberto Morassut, grazie per la sua disponibilità, parlamentare del Partito Democratico e appunto ex assessore all'urbanistica con Veltroni, ex segretario regionale del PD del Lazio. Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Ho visto che avete scritto, lei insieme ad altri suoi colleghi della costa di Venezia, i comuni costieri della provincia di Venezia, a Renzi, basta profughi, dite, perché ci scappano via i turisti. È vero, la riunione che abbiamo fatto ieri è proprio capitata a puntino, perché questa notte mi ha chiamato il viceprefetto della provincia di Venezia e che mi avrebbe mandato nel mio comune, cioè Jesolo, una cinquantina di profughi, tra di fatto che sono proprio arrivati questa mattina all'alba. Tra l'altro dovevano essere ospitati all'interno della Croce Rossa, se non che la Croce Rossa non ha aperto le porte, quindi sono rimasti un paio di ore. Mi scusi Zoggia, questa me la spieghi, nemmeno la Croce Rossa ha aperto le porte? No, perché secondo il viceprefetto c'era un accordo che dovevano ospitarli loro all'interno della Croce Rossa, se non che probabilmente gli accordi non erano chiari e la Croce Rossa non ha aperto le porte, sono rimasti il pullman un paio d'ore, poi il pullman che era noleggiato di una società aveva probabilmente altri impegni, li ha lasciati nel marciapiede, adesso stanno vagando per la mia città, non si sa dove, e quindi stiamo cercando di capire con le forze di polizia cosa fare. Senza alcun controllo, in sostanza. Nessun controllo, proprio abbandonati sul marciapiede, una cinquantina di loro, un po' sono andati di qua, un po' di là, un po' sono seduti sul marciapiede. Adesso ho attivato i servizi sociali per vedere almeno di dargli un pasto da mangiare, qualcosa. Certo. Allora, il suo comune ospita una serie di profughi o migranti, insomma, non lo sappiamo ancora in realtà che cosa siano. Alcuni saranno richiedenti asilo, altri saranno immigrati economici, insieme al suo altri comuni. In realtà il prefetto ha scritto l'altro giorno dicendo: occhio, perché su 43 comuni del veneziano sono solamente 7, tra cui il suo, che hanno di fatto accolto i profughi. Sì, noi la lettera che abbiamo fatto come tutti i comuni delle costa veneta, non solo provincia di Venezia, perché c'è anche la provincia di Rovigo, abbiamo fatto unitariamente questa comunicazione, inviata non solo a Renzi ma anche il nuovo governatore che ha riconfermato Luca Zaia, nonché ai prefetti di Rovigo e di Venezia, dicendo che guardate che se mandate ancora profughi nelle nostre località fate un danno enorme al turismo, perché stanno già arrivando numerose disdette di operatori turistici stranieri che dicono che i nostri clienti non vogliono venire nelle vostre spiagge perché c'è il rischio che ci siano i profughi. Quindi c'è questo pericolo, una delle poche attività dell'economia che sta trainando ancora questa povera Italia, che è il turismo, rischia di essere compromessa anche da questa cosa. Senta, ma voi quanti ne accogliete nel frattempo, Zoggia, al momento? Noi abbiamo la Croce Rossa che cioè, esclusi questi 50 che non si sa dove siano. Erano un centinaio. Escludi questi 50, prima erano un centinaio ospitati nella struttura della Croce Rossa. Sì, aspettate nella Croce Rossa. E ci sono strutture del comune anche che sono state messe a disposizione? No, noi non abbiamo strutture, come più volte comunicato, e privati però non hanno dato nessuna disponibilità di alloggi, perché siamo all'estate, quindi probabilmente Gli alloggi li affittano ai turisti, evidentemente. Bravissimo, anche gli alberghi, certo. La ringrazio, grazie a Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo, col quale abbiamo voluto segnalare questa situazione. Avete sentito ancora una volta la storia, e non è la prima volta che la raccontiamo, di persone trasportate in pullman e lasciate, insomma, a prescindere da tutto, da come la si pensi, no? Se si è a favore dell'accoglienza più completa o a favore del più completo respingimento, assolutamente folle che 50 persone vengano portate in pullman in un comune, lasciate così senza alcun controllo e senza alcuna verifica. Ci fermiamo, c'è la borsa, ci ritroviamo subito dopo e c'è una storia in qualche modo parallela a quella che abbiamo raccontato, perché ritorniamo sulla vicenda di Twill, l'uomo arrestato con l'accusa di essere uno dei partecipanti alla strage del Bardo a Tunisi. Ebbene, sono 30 giorni che è in carcere e insomma dettagli ancora più specifici sulla sua accusa non ce ne sono. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Divorziati, risposati, omosessuali, aperture della Chiesa nel documento di base del Sinodo sulla Famiglia. Inchiesta su 5 gare del Catania, in manetta anche il presidente Pulvirenti, le accuse truffe e frode sportiva, avrebbe comprato i match per non retrocedere, dimostrerò la mia innocenza, dice. La giunta di Roma è sempre più in bilico, dopo le dimissioni dell'assessore ai trasporti potrebbero arrivare quelle della responsabile bilancio, pressione di Renzi su Marino perché lasci. E siamo alla borsa. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E adesso ritorniamo ad una vicenda della quale ci siamo ampiamente occupati, la vicenda di Abdelmajid Twill, lo sapete, il cittadino marocchino che era stato arrestato su mandato della Tunisia per aver partecipato per una presunta complicità nell'attacco al Museo del Bardo di Tunisi. Vi abbiamo raccontato quello che è successo nel giorno dell'arresto e anche nei giorni successivi ci siamo ritornati raccontandovi tutti i dubbi che stavano emergendo sulla vicenda. Ci vogliamo ritornare perché Antonio Misiani, deputato del Partito Democratico, ha incontrato Twill in carcere ed è adesso in linea con noi. Misiani, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei. Che impressione ha avuto innanzitutto a livello generale? Ma l'incontro non è stato semplice perché il ragazzo non parla italiano, c'è stato bisogno di un interprete. Twill si professa innocente dei reati di cui è accusato, poi è chiaro che naturalmente spetta alla magistratura italiana e tunisina andare a fondo ad una vicenda che ha fatto discutere. I reati di cui si parlano sono molto gravi, ha fiducia nella giustizia italiana e tutti noi speriamo che la giustizia vada fino in fondo e faccia il proprio corso. Che cosa le ha detto? Lui è riuscito a darci una qualche spiegazione di questo arresto? Perché come sappiamo e come abbiamo raccontato, come dicevo, anche nei giorni successivi sono emersi molti dubbi insomma su quello che è avvenuto. Sa darsi qualche spiegazione lui? Ma guardi, i parlamentari quando visitano i detenuti nelle carceri possono informarsi sulle condizioni di detenzione, non su aspetti legati al procedimento giudiziario in corso, quindi questo tema non è stato affrontato. L'unica cosa che ci ha raccontato Twill è il viaggio dal Marocco alla Tunisia fino alla Libia per poi imbarcarsi su un barcone e aspetti della vita che conduceva prima di essere arrestato. Lui, ripeto, sostiene di essere innocente, questo è l'unico momento in cui abbiamo toccato qualche cosa che ha a che fare con il procedimento giudiziario. No, per il resto non siamo entrati nei dettagli, non era questo l'oggetto della visita e non è questo permesso dai regolamenti dell'amministrazione penitenziaria. E le condizioni nelle quali era, nelle quali l'ha trovato, come sono? Psicologicamente provato, però lui stesso ha riconosciuto di essere trattato secondo le regole dall'amministrazione del carcere di Opera. Un'ultima cosa, mi diceva che insomma, vi ha raccontato il suo viaggio, che è il viaggio delle tante persone che decidono di fuggire dal proprio paese per motivazioni economiche o politiche evidentemente, poi l'approdo in Italia. Ecco, in questo passaggio, posto che forse siamo in quell'ambito che lei mi diceva, in questo passaggio lui ha detto: in Tunisia non ci sono mai andato, cioè ha detto nel momento nel quale sono arrivato in Italia ci sono rimasto. Lui ha detto che vuole rimanere in Italia, che è venuto qua, lavorava, aveva iniziato a studiare l'italiano e lui vuole rimanere qua. se venisse liberato, lui ha manifestato l'intenzione di rimanere in Italia. Ha detto appunto che in questo periodo è rimasto in Italia, in sostanza. Questo non lo ha specificato, è quello che ha raccontato ai magistrati, ma non ce l'ha specificato nel corso del nostro incontro. La ringrazio, grazie ad Antonio Misiani, deputato del Partito Democratico, che in carcere ha contratto appunto Abdelmajid Touil e che ci ha permesso, soprattutto, come avete sentito, dettagli se ne possono avere pochi, come è normale che sia in queste situazioni, e però ci ha permesso di riaccendere un faro su questa vicenda. Questa persona ormai è oltre un mese che si trova in carcere, come sapete e come vi abbiamo detto, con qualche incertezza, per così dire. La ringrazio Misiani, buona giornata. Grazie, grazie a voi, arrivederci. E accendiamo un altro faro, in questo caso sulla situazione in Iraq. Lo facciamo con un'intervista. Katia Caramelli ha sentito Monsignor Luis Sacco, che è il patriarca di Baghdad, che ci ha dato un quadro, un racconto di quello che sta succedendo nel paese. Non solo per i cristiani, ma per tutti gli iracheni. Hanno perso la pazienza, sempre guerre, conflitti. E adesso non c'è ordine, è una anarchia. Dunque il governo è molto debole, l'esercito non può cacciare via ISIS e altri. Tanti cristiani hanno lasciato la città di Baghdad, intellettuali ma anche mercanti sono rimasti, i poveri la classe media. Ma a Mosul e la piana di Ninive adesso non c'è nessun cristiano. 120.000 cristiani hanno lasciato le loro case in una notte. Noi abbiamo accolto questi cristiani, abbiamo dato loro da mangiare e bere, poi abbiamo affittato case, in ogni stanza c'è una famiglia. E il problema è il futuro, anche loro hanno paura e sono preoccupati sull'avvenire. Ritornano quando non ritornano, e i loro figli dove vanno per la scuola, l'università e i loro lavori. Dunque hanno lasciato tutto senza niente, anche documenti hanno preso di loro. È una situazione molto tragica e non possiamo aiutare più perché il numero è grande. E accanto a questi cristiani ci sono 3 milioni di musulmani. È un altro guaio, veramente. Traffico